No. No, fai. Oh. Ok. Vai. Vedi come cresce. E questo ormai è l'inconfondibile sound del vendere. Vai, vai. Vai avanti così, vai. Adesso ti lascio in solo, fai la solo di ok? Funziona? Dai che ti viene l'infarto, vai. Vai. Eccolo. Eccolo che viene. Ecco. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da venerdì. Un saluto da venerdì. No, vabbè, tu non sei, tu sei, sei, drago, sei dai, giovedì, proprio, sei proprio un giovedì. Io sono venerdì. Tu sei venerdì, quindi sei quello di Robinson Crusoe. Sei, sì, esatto. Buon selvaggio. Sì, vabbè. Sì, sì. Comunque ieri la storia del compagno di banco, il migliore amico, così mi ha fatto un po' pensare. Sì, ricordiamo che in Inghilterra si sta preparando una rivoluzione nel concetto stesso di stare in classe, all'asilo o a scuola. E cioè l'abolizione per decreto legge dell'amico del cuore. Sì, i bambini devono avere rapporti con tutti e non rinchiudersi in rapporti esclusivi. Ecco, però questa è l'assurdità, perché la cosa bella di andare a scuola è proprio rivedere ogni mattina l'amichetto del cuore, quello con cui condividi le tue passioni, i cartoni animati, i giocattoli, la squadra di calcio, a me non riguarda, capito. Insomma, capito. Sembra che questo tipo di rapporti non vada bene alla lunga. Ma perché? Perché i bambini non imparano ad aprirsi agli altri come poi invece è necessario fare da adulti. Semplificando al massimo, chi si rinchiude in un rapporto esclusivo rischia di diventare come i coniugi di erba. Ma cosa? Quelli del Martinetto? Ma certo, ma loro due erano i tipici amichetti sempre insieme, no? Questo tipo di rapporto morboso ha fatto sì che sviluppassero una paura folle verso le altre persone. Vedi poi com'è andata a finire. Il Martinetto, sì, ho capito, ammazzato bambino, ma ammazzato madre, riespaccato la testa al fatto nonno. Fatto cena, ma l'esempio però è un po' pesante, Drago, non va bene. Forse sì. Beh, allora pensiamo a Kurt Cobain. Lui aveva solo Courtney Love. Sì, vabbè, ma lì era un problema sario. Sario. Se l'unica persona che hai è Courtney Love... È logico che prima o poi decidi di farla finita, no? Questo è molto divertente. Chiedo asilo. Hello. Ioris, Alberto, venite un po' qua. Eccoci, agli ordini. No, bravo. Cosa c'è? No, dovete sapere che tra poco entrerà in vigore una legge che vieterà in modo tassativo di avere un amichetto del cuore. Non si può. In che senso? Nel senso che sembra che i bambini debbano essere amici di tutti, capito? Tutta la classe. Senza preferenze. Quindi Ioris, tu che sei tanto attaccato al bambino Alberto, quasi sì, sai, morbosamente, devi cominciare a pensare di cambiare atteggiamento, hai capito? Sì, ma quale morbosamente? Vabbè, morboso, insomma, dai. Sai. Alberto è il mio amichetto preferito. Però ti voglio Niente bene, Alberto. Ti voglio bene, Alberto, tutte quelle robe lì. Adesso, in ogni caso, non posso più esserlo, se ho capito bene. Esatto. Sì, hai capito bene, hai capito bene. E io che faccio? Come faccio? Dai, non fare il tragico. Vabbè, ma che dici? Cioè, per me vuol dire che a te non te ne frega proprio niente di me. Ma no, è che intanto bisogna vedere quanto ci metterà, cioè ci vorrà del tempo, no? Prima che la regola vada in vigore, no? Quindi per adesso non cambia niente. Stavo già sentendo male, quindi io e te possiamo continuare a vederci all'asilo, no? No, sì, vabbè, Ioris, però devi stare attento, perché se investi troppo affettivamente in questa cosa, poi rischi di rimanerci male dopo, perché poi le cose cambieranno, quindi... Secondo me se prendi un po' di distanza già adesso è meglio. Che hai detto? Non ho capito. No, niente. Devi farli sempre difficili. Ma che è difficile? Ma come sarebbe? Niente. No, Ioris, lascia perdere. Gli adulti fanno così, no? Cioè, prima dicono delle parole così, libertà, che non hanno nessun significato. Poi dopo tu chiedi giustamente spiegazioni e loro ti dicono niente, come dire, tanto inutile che tanto... Sì, però Ioris, tu hai la tua canzone che hai dedicato al bambino Alberto, Te voglio bene Albe, te la ricordi? Come no? Quella canzone lì purtroppo adesso ti resterà, perché adesso come fai? Non potrai nemmeno più cantarla, perché il regolamento dice che devi essere amico di tutti, dice, certo. Vi voglio bene bambini. O scrive delle canzoni per tutti. Vi voglio bene amici, così. No, io la canterò ancora con... più appassionata a me, con di più di prima. Ma per cosa? Stai calmo, Ioris, stai calmo. Ma stai facendo sentire male. Ma Ioris, ascolta un attimo, tirati su. Cioè, questa canzone andiamoci un po' piano, perché non vorrei che fosse fraintesa, no? Cioè... Ma quale fraintesa? Lo dico pure nel testo, vabbè, non fraintendere, non sono gay. Ma fammi piacere, ma te l'hai già visto quante volte. È vero, però l'insistenza... Sì. Cioè, ma poi comunque no. Scusa, anche se fossi gay, Ioris, non ci sarebbe niente di male. Ok, ma io lo ripeto l'ultima volta, io non sono gay. Ma fammo piacere. Vabbè, a parte questo coming out al contrario, in estremis, giustamente, di Joris. Perché poi dopo vedi queste cose degli inglesi che i migliori amici, magari sotto sotto, sono degli omofobi e dicono: se lega troppo l'amichetto con l'amichetto, magari l'amichetto, sfocia in un rapporto contro natura. Invece lui e Joris vedi di non fraintendere. Non fraintendere. Comunque ti stai dimenticando una cosa fondamentale, Drago. Cioè? Come cioè? Oggi che giorno è? Drago, oh, Drago, mamma mia, Drago. Va bene, dai, salutiamo e ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato a Chiedo Asilo, e cioè Laura Faggin, e cioè anche Carmelo Lauricella e Pietro Lacorte, e poi Guido Bertolotti, anche se non c'era, chi se ne frega, Alberto Caserini, Chiara Mignemi, Salvatore Iorio, K e Drago. Scriveteci su Facebook, la bacheca è quella Chiedo Asilo, diffidate delle imitazioni. E mandate i video, i didascalici delle canzoni del bambino Alberto. Sì, ma quante robe devono fare? I compiti li abbiamo dati. I compiti del fine settimana. Nessuno li fa mai. Da fare tutto per lunedì. E lunedì controlliamo, diamo voti e soprattutto castighi.